va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marsi, alla conduzione tecnica Simone. Une. Giovedì 22 gennaio 2015, come passa il tempo. Piazza Alta, perché siamo qui? Lo vedremo dopo. Bene, perché... iniziamo così. Possiamo andare prima. Bellissimo. Marvin Gaye con il suo brano più famoso, ed è inutile che dica come si intitoli. Assolutamente, perché tu non lo sai leggere. I Hate It Through the Grapevine. I radioascoltatori non lo capirebbero, quindi. Ma è bellissimo. Io stavo meditando, penso che bisogna fare un collage dei backstage di quando faccio le prove. Ti prepari a leggere, a disannunciare i brani. Allora, non so l'inglese, questo è certo, ma non lo so particolarmente bene quando devo disannunciare i brani in radio. Non lo so. È il tuo ruolo. Quindi, Piazza Alta. Chi siamo? Io non lo so, come sai vado in analisi e quindi sto cercando me stesso. Io sono Marsi. Io sono Enzino e stiamo facendo un programma. E perché casualmente parlare con siamo voi qui a Radio F? Ma da quando? Ma dal 1976. Ma chi ci ascolta? 101.2, ecco. www.radiof.it e le applicazioni per Apple e Android, Radio F. Allora, guarda, le applicazioni dette così e poi da domani mi darebbero stimolo per dire tante altre e poi cose. Da domani potete trovarci anche sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta e tra un po' di giorni anche sul nostro canale YouTube. E qui abbiamo finito, ma no, assolutamente voi non potete vederci, ma in questa e questo questa è un bene per voi sicuramente. Ma stasera siamo, penso, il record di presenze in radio e anche di un certo livello, e questo non è un bene per voi. Siamo tanti, siamo due, quattro, perché abbiamo anche sei, sette, del sei, genere femminile che qui spesso non è, non c'è. Sempre roba anche di una certa qualità. Oh, allora ora faccio il serio o io faccio il fascetto, va? Esatto. Allora, di che cosa parliamo stasera, caro il mio Marzi e cari miei amici a casa, non è vero? Di una novità, perché noi, bravo, siamo all'avanguardia, siamo storia, ma siamo anche futuro, siamo presente e siamo, ma anche passato prossimo. Io ho una predilezione per il gerundio. Io per il futuro no, non lo posso dire, ma andiamo avanti. Ando. Allora, l'argomento di questa sera parliamo, cari miei, della regina di tutte le associazioni foianesi, senza nulla togliere a tutte le buon altre ascolto dalle associazioni regine. Perché, caro il mio Marzi, da pochi giorni è stata fondata la nuova Proloco Foiano. Attenzione, attenzione! Proloco Foiano, un'icona dei nostri tempi, dalla chiesa della Carbonaia all'iniziativa che mancava, una sfida immane per rilanciare Foiano in Toscana, in Italia, in Europa, nel mondo e perché no, nello spazio. Dopo Pro Bono, Pro Domo, Probiotico, ecco Proloco, un segno che a Foiano qualcosa si muove e non sono solo le campane, qualcosa gira e non sono solo le ruote. Questa sera a Piazza Alta. All the things behind, all the Star Junkies. Incredibile, ragazzi. Rising. What's in America? What's in America? È una band torinese e questo è l'ultimo album uscito nel 2014. Quindi hanno anche studiato per trovare un nome. E io di questi li ringrazio personalmente. Ma tutti un po', tutti. Anch'io per il sound, per il groove. Allora, siamo diventati 9 intanto. E si se prima eravamo in 8 a parlare della Proloco, adesso siamo... Ora, ci gira così stasera. Allora, come avete sentito dalle dolci note di Marzi, stasera parliamo della Proloco di Foiano. Senti, sì. Non so se noti anche e perché ci coinvolge così. Ma perché? Aspetta, non era perché così. Siamo per la novità. Lo so, perché te leggi. No, allora, perché parliamo della Proloco di Foiano? Ma soprattutto, bravo, perché è una novità che è stata fondata ed è stata fondata i primi giorni del 2015. Perché giovani? Perché è composta da persone sono giovani, belli. Belli. Belli. Grazie. Prego. E Marzi adesso Marzia adesso ci presenterà le persone che sono qui con noi ed, okay. E ognuno di loro diranno anche il loro ruolo che ricoprono. Perfetto. Allora, via. Vorrei partire dalla mia sinistra perché come ben noterete no, perché alla destra ho il muro e abbiamo Gaia. Buonasera. Buonasera. Grazie Gaia. Per l'invito innanzitutto. Ma è un piacere. Ci siamo grazie anche noi per le pizzette e per i crostini. Ma ci mancherebbe altro, la prossima volta portiamo anche qualche dolce. Benissimo, il tuo ruolo nella Proloco? Il tuo ruolo qual è? Vicepresidente. Niente po' di meno, tanta pipì di più, Sì. Stasera Marcello è in forma. E io lo adoro per alla sinistra di Gaia abbiamo Luca. Qual è il tuo ruolo, Luca? Io sono il presidente. Allora, più di così. Ora voglio vedere dopo che succede. Dopo che... Allora, aspetta, che devo spostare i microfoni. Alla sinistra di Luca e alla destra. Vabbè, era un leitmotiv. Abbiamo Valeria. Buonasera, Valeria. Ciao, buonasera a tutti. Tu partecipi per letteratura, per storia o geografia? Ah, scusa, no. Una vocazione ormai. Senti, che cosa ci rappresenti all'interno della Proloco? Sono la segretaria. Oh, nell'immaginario collettivo. L'assistente del presidente. Vabbè. Attenzione. Procediamo, lasciamo perdere. Metti giù il megafono. Abbiamo Benedetta. Ciao sì, Benedetta. Buonasera. Benedetta, il cui ruolo è? È addetto stampa. Benissimo. Ha detto? Stampa. Lo dobbiamo ripetere? Lo vuoi ripetere in inglese? Yeah. Press. Era print, no? Press. Non l'ho capito. Ah, stampa. Poi abbiamo Alessio, che salutiamo. Il quale diciamo nel suo periodo sabbatico. Non quindi vuole, non può parlare. Non rilascia interviste. Okay. È un sostenitore, però. Sì. E poi causa. Abbiamo invece Giampiero. Buonasera, Giampiero. Ciao. Sentite la voce. Il tuo ruolo qual è? Aspetto che me lo facciano sapere. Grazie perché per il momento sono un misero consigliere. Ma chissà che alla fine di questa trasmissione non venga fuori anche un qualche cosa di più specifico. Intanto ti ringrazio perché hai lasciato un po' di pathos e di. Ma tra l'altro la sua voce per i nostri più attenti ascoltatori è stato già nostro ospite. Perché lui è uno dei mattatori di quanto non hanno sentito tanti anni di fumo per arrivare a una voce così. Se volete una voce come Gian Piero, c'è. Ecco, le multifilter dovrebbero essere le più indicate. Che non esistono più. Bene, Simone, che dire? Vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa anche te? Anche te? Ciao. Che ruolo hai tu? Io metto i dischi. Bene. E allora facciamo salutare anche Paolo, che ringraziamo. Che fai, Paolo? Ciao. Paolo fa le riprese. Allora, ci siamo tutti. Io direi. Possiamo buon partire. Ascolto. Dal. Dalle F frequenze. Except to Avete sentito un brano interessantissimo e abbiamo passato tutto il tempo a cercare di capire come pronunciarlo. Ecco, e abbiamo deciso di farlo alla francese. Ma perché no? Con la lingua. Ma parble. Ma parble. Come on, Tigre. Sì. Oh, eh? Fédération Tunisienne de Football è il brano. Ma fammi dire, più partecipo a questa trasmissione, più scopro cose. Che di musica non ne sai nulla. Esatto. Questo più che un gruppo è una band, direi. No, anzi, no. Più che una band è un collettivo. È un groupon, direi. Alla francese. Non andremo da nessuna parte. Sì. Insomma, l'avete sentita. Ok, ritorniamo, visto che sono l'unico serio di questa trasmissione stasera. Tutto. Vorrei fare la prima domanda ai nostri ospiti. Siamo uscite qui con fuori con le mani alzate. I maggiori rappresentanti istituzionali e i sostenitori della Proloco di Foiano. Proloco Foiano. E a noi ci piace questa cosa perché è una cosa nuova, una cosa che dovrebbe, penso, se ho capito bene, dare un impulso importante a Foiano. Ora in onda il momento serio di marzo. Ed è già finito, vi ringrazio. E la prima domanda che vorrei fare, poi ditemi voi chi si sente di rispondere, è: come è nata l'idea di creare una Proloco a Foiano? Di cui permettetemi di dire ce n'era tanta bisogno. Se è una cosa un po' esotica, se era... Beh, il presidente Luca Posani. Mi sembra giusto. Prego. È nata dalla volontà di un po' di persone di creare questo gruppo e di rinnovare un po' quelle che sono le tradizioni del paese, per ridare un po' di vita, per vivere un po' Foiano, che non si vive più. Beh, quindi rinnovare, ricercare e tramandare, sì, trasmettere quello che è Foiano. Che è Foiano. E normalmente la Proloco ha anche, diciamo, una funzione anche di collettore, diciamo così, non dico di supervisione, ma anche un po' di coordinamento anche con altre iniziative. Ecco, voi partite adesso e i primi impegni che, diciamo, vi potete dare di qui ai prossimi, non lo so, le prossime settimane, i prossimi mesi, tanto per stare subito sul concreto? Ma abbiamo in mente già 3-4 progetti che sono in elaborazione. Prima di esprimersi proprio sul progetto in sé, bisogna realizzarlo. Vogliamo. Siamo scaramantici. Allora finisce la puntata. No. Ciao, sì. Diciamo così, stiamo un pochino più sul generico. Che diciamo accoglienza avete trovato a Foiano per questa vostra iniziativa? Pensavamo che fosse più fredda all'inizio, invece sì, anche la stagione, insomma, la aiutato. Potevate scegliere. No, però ha aiutato perché sì, non un è stata po' umida, fredda. Però un po' umida. Sì. No, pensavamo che la gente partecipasse di meno, invece si è dimostrato tanto affetto, è stata numerosa la presenza all'inaugurazione. Ecco, noi siamo stati testimoni dell'inaugurazione. Scusa, Enzo, proprio scusa se ho parlato per due secondi. No, a questo riguardo io volevo sapere se era per l'iniziativa o per il buffet. Allora posso dire ora, noi vi garantiamo che per i prossimi 40 minuti saremo seri, non è vero? Però durante la presentazione del buffet, perché sì, ci ricordiamo durante la presentazione della Proloco che si è tenuta il giorno 10 gennaio in Carbonaia, io e Marzi eravamo in fondo perché non siamo riusciti a entrare, tanta era la gente che c'era. La sfortuna ha voluto che fossimo accanto al buffet. E mentre il presidente parlava, Marzi mangiava il salame, giuro. Quello che mi passava è Enzino. Chiaramente. No, però comunque, seriamente si fa per dire, abbiamo notato veramente un successo di partecipazione, quantomeno diciamo alla presentazione. Ma avete anche dei riscontri fattivi con altre associazioni già? Ma o altri, che ne so, enti, cose varie, il comune come reagisce? Il comune reagisce benissimo, si appoggia pienamente, ha accolto la Proloco con grande entusiasmo, e lo stesso la gente. La mattina mi fermano dopo aver preso il caffè: ah, siamo contentissimi che si sia ricostituita la Proloco, noi vogliamo partecipare. Non a caso stamani un signore che è di Venezia mi ha fermato, dice: io non sono residente a Foiano, però voglio partecipare, chiamatemi, datemi la tessera, io voglio che questo paese riviva, perché è un paese dove io vengo molto volentieri. E queste sono parole di speranza, direi. E sì. A proposito di tesseramento, conosco un paio di persone assenti dalla lista dei tesseramenti. Mettici tra i presenti. Simone, andiamo con un brano? Volevo lo faremo attenzione, immediatamente. Attenzione. Ecco, il caffè con l'anice la mattina fa anche questo effetto. Marzi, se dicessi di essere in un posto ascoltando questa canzone, dove diresti di essere? Ma più che in un posto, in che stato d'animo? No, in un treno, perché questo è train, Goldfrapp. Goldfrapp. Ok. Se lo dico io, dico io. Chi erano? L'abbiamo detto. Che cosa fanno? L'album è Black Cherry. Black Cherry. Ma adesso. Veramente incredibile, incredibile. Non ho sbagliato parole. Anche questa. No. Black Cherry. No. È un disastro. Comunque. E ci siamo imposti che le presenze. La musica sempre è gioia, soprattutto se la devi annunciare e disannunciare. Bene. Oh, ma continua te, va? Ma perché? Prologo Foiano, stiamo parlando con i nostri ospiti che sono tanti e numerosi e anche di un certo lignaggio. Sì. Io avrei voglia di parlare un aspetta attimo. Devo dire una cosa, Gaia, non sbattere il telefono che si sente in tutta la simpatica amica. Carino. Simpatica, questo rimane poi, fatela eh? Uscire in eterno finché rimane. Ok, una serata un po' random. Vorrei fare una domanda a Gian Piero, che secondo me è quello che dal punto di vista artistico abbiamo avuto modo di vedere, che è quello che ha un pochino più di esperienza. Anche già il nostro ospite con Artificio, quindi. Esatto, e soprattutto io sono stato spettatore la serata del 10 di gennaio alla presentazione della Proloco. Tra una fetta di salame e un'altra. Esatto, che mi passava in sino. Ce l'ha mangiato il pane, sì. Ovvio. della sua, come dire, declamazione. Della sua presentazione delle varie fotografie. Cioè, scusami, ti riferisci? Guarda, sono turbato. Da se puoi tenere un qualche decibel più alto. La, Simone riesce qualche a tono, mezzo tono, Bob, scusa. ecco, quindi dicevo, te sei un, prima di tutto, scusa, c'ho il mal di gola. Che posso fare? Che posso prendere qualcosa? La domanda è lecita. No, visto questo è sfruttamento ignobile. Comunque del mezzo pubblico. Allora, senti, ci sono dei recenti studi che dicono che comprando una tessera della Proloco, poi la sera metti un pentolino d'acqua a bollire, ci metti la tessera dentro, poi ci fai un gargarismo. I fumetti. Però il giorno dopo devi ricomprare un'altra tessera. Certo. Perché pensa che io avevo pensato soltanto di appoggiarla sulla mia gola. Sì, ma se la metti a bollire il giorno dopo ne devi comprare un'altra. È bravo. È il primo caso di tessera solubile. Allora, come speravo fosse l'unica persona un po', come dire, seria. Non è così. E continuiamo su questa fase. Faccio la persona seria rapidamente perché poi devo scappare. Dicevo, vai a mettere il pentolino. No, c'ho un'altra riunione con l'associazione Artificio, quindi importante. Sono in prestito stasera. No, seriamente, devo dire che sono molto contento di dovermi ripetere, perché appunto neanche un anno fa ero qui con l'associazione Artificio a presentare lo spettacolo che. Allora, dopo neanche un anno, riessere qui, e come dissi l'altra volta, l'essere qui è un'emozione particolare, perché ragazzi, voi fate tanto gli spiritosi, ma nel 76 eri nati. 1976. Nel 76, 5 anni, io ne avevo 16, fui uno dei 5 sciagurati che mise su tutto questo ambaradan. C'è stato un periodo di buio terrificante, e quindi essere neanche un anno fa qui con voi a presentare Artificio, dopo appunto neanche un anno essere qui con questi ragazzi che devo dire sono splendidi, hanno un sacco di voglia di fare, significa che a Foiano c'è veramente qualcosa di nuovo, e che questa radio che lasciai tanti anni fa ha voglia di far conoscere le cose buone e nuove che ci sono a Foiano. Quindi, grazie a questi ragazzi e grazie anche a voi. Potrebbe essere anche una minaccia da parte tua, perché se tra un anno ti ripresenti con un'altra iniziativa nuova ti dobbiamo reintervistare. Allora, fra un anno penso che verrò portato dalla ambulanza con la barella a presentare ancora un'altra cosa. Bene. Perché no? E noi speriamo di essere qui a farti da. Ma prima di mandarlo via, Giampiero, ci deve declamare quello che è stato declamato in sede di presentazione della Proloco proprio alla Carbonaia il 10 gennaio, un pezzo di quello che hai fatto la sera. Solo un pezzettino? Un pezzettino. Botoli ringhiosi. Mi sembra il più attinente. Tra l'altro ci riguarda pienamente, direi che grazie Giampiero e buona riunione. Ok, ciao. And the alone. Now I can think for myself about your deals and issues, things I just don't understand. I can white light at night, or it's like touch at times. I don't think I'm an agent to you. Gary Numan and the Tubeway Army. No, questo per far vedere che non sono un coglione a caso. Fratello di Paul. Esatto, caro Numan. No, Newman, no, questo è Newman. Vabbè, tanto fa vedere. Il titolo della Gary Numan è il titolo. Scusa, della il titolo della canzone è Gary Numan? No, è quell'altro. Sì, Our Friends Electric. No, stavo arrivando, ma ha interrotto lui. Stavo dicendo Gary Numan and the Tubeway Army, che è il suo gruppo. E la canzone era Our Friends Electric. Vuoi sapere qualcosa di questo brano? Ma... ci avrei scommesso. Sì. È solo del 1976? 9. Però insomma l'aria si sentiva. Non abbiamo ancora ricordato che abbiamo un bellissimo canale YouTube dove a breve andrete a trovare anche questa puntata e vedrete anche i fuori onda, che sono, credetemi, validi tanto succosi quanto le dirette. Comunque stavo infatti riflettendo che comunque qualche sprazzo, qualche input che ha la Proloco ci si può divertire. Sì, sì, assolutamente. Viene fuori, perché la combriccola sicuramente è interessante, le idee mi sembra che ci siano. E adesso faccio due o tre domande di cultura generale. Cultura generale. Mi risponda chi voglia. Volevo intanto sapere, in quanto Proloco, siete affiliati a un ente nazionale? Esiste un ente nazionale? Ma che domande mi fa? Mi cade sul banale, non per deve... non dire altro, io non devo tonfare sul tavolo, sarà detto. Esatto. Questa è la vicepresidenza, che parla. Certo. Prego. Ci vuole gente seria, la vicepresidenza. E quindi? Quindi esiste sì, esiste, è l'UMPLI. Ecco, quello che volevo chiedere io, può esistere una Proloco non affiliata a questa? Sicuramente, può esistere anche una Proloco non affiliata all'UMPLI. Chiaramente mancano in quella Proloco delle agevolazioni che noi in questo momento, avendo riconoscimento, abbiamo. Ecco. Soprattutto, visto che siamo a chiedere le tessere, soprattutto per i soci. Ecco, e questa era l'altra domanda che volevo farvi, infatti. Vedi, ma io ti leggo nel pensiero. Esatto, poi... è un foglio bianco. Tra l'altro, con Gaia abbiamo fatto anche un programma televisivo meravigliosamente, come con Marzi, tra l'altro. Sì, beh, perché ti eri malato e ti ho rubato il posto. Vabbè, ma che meraviglia, lasciamo perdere. Ora, no, volevo chiedere: ci si può associare sia come singole persone che come associazioni? Che come associazioni, ci mancherebbe altro. Dici subito il costo della tessera, così ci togliamo questo dente. Ma sì, senza né saper né leggere né scrivere, ma... per. Vai, lancia. Sai far di conto. E la tessera, e la tessera costa 10 euro persona fisica, 30 euro le associazioni. Perché io associazione dovrei associarmi alla Proloco? Che vantaggi potrei avere? Potresti avere così tanto, perché sembra di fare una televendita. Potresti avere vantaggi. Sì, faccio anche la voce un pochino più impostata. No, falla normale. Ci sono dei vantaggi a livello di SIAE. Attenzione, aspide. Sì, no, scusa, mi ero andato via il suono dalle cuffie. Dei vantaggi della parte della SIAE, da quindi parte della SIAE, dei vantaggi quindi importanti. Che non alla è fine una cosa indifferente. Dell'anno solare, ok, no, no. Ok. E la persona fisica? La persona fisica ha degli sconti, esempio assicurazione Resci Auto, ci sono alcune importanti compagnie nazionali che aderiscono a questa cosa facendo sconti che vanno dal 10 al 15% sulle Resci Auto. E comunque, per chiunque fosse interessato, www.umpli.it. Ora, incredibile, incredibile. Complimenti, guarda. Veramente. Ci sono anche agevolazioni a livello proprio locale, eh? Ci sono locali a Foiano, Lucignano, Monte San Savino, non solo locali ma anche, quindi, negozi. Diciamo che praticano gli sconti. Questa vostra iniziativa è soltanto il primo passo verso tutta una serie di cose che nel futuro ci potrebbero dare anche dei riscontri interessanti, oltre che a delle iniziative, anche, non so, a dei risparmi, a delle agevolazioni. Speriamo che anche alcuni commercianti o attività foianesi aderiscano a questa. Ma sicuramente sarà così. Ma lo faranno sicuramente. Però non so se posso chiedervelo, perché avevo preparato delle domande che mi avete fatto già cancellare. Però provo lo stesso. Ma non si dice. No, niente, erano cose personali. Sì, lui tendenzialmente va un po' sull'intimo. Scala, alle volte dà fastidio anche molto a me. Molto bella 2000. No, volevo chiedervi. Pi. E già non me lo ricordo più. Non ascolto. Avete parlato di un'iniziativa molto molto interessante. Non so se ne potete parlare. Quella dell'ufficio turistico diffuso. Ne possiamo parlare? Spengo i microfoni? Sì, c'è stato un incontro con il comune in merito. Ma, diciamo così, non è ancora attivo. Quale sarebbe l'intento? Come funziona? Che cosa consiste? L'intento è quello di coinvolgere i commercianti foianesi in questo nostro ufficio turistico. Essendo impossibilitati ad avere un ufficio informazioni presente nel territorio, perché ovviamente significherebbe avere delle persone presenti lì dalla mattina alla sera e retribuite. Allora, abbiamo pensato di coinvolgere i negozianti, che comunque dalla mattina alla sera al negozio ci devono stare, e chi aderisce avrà dentro uno spazio dove ci sono delle brochure, dei volantini, delle cartoline illustrative nel nostro paese. Esternamente, per il turista che è interessato, che cerca l'ufficio informazioni, ci sarà da definire questa parte, ci sarà una bandierina, un cartello, è la modalità che è da definire, che segnala che quello lì è un punto di informazioni. Guarda, Enzo, che secondo me questa è un'idea molto interessante, perché praticamente la promozione turistica del paese di Foiano la fa il foianese stesso. Io dico, cioè, sì, quello che durante la giornata, durante la sua attività lavorativa, magari lascia per 5 minuti oppure si dedica a dare delle indicazioni turistiche a chi verrà a trovare a visitare Foiano, che mi dicono, al contrario di quello che onestamente pensavo io, durante l'anno sono anche moltissime persone, sia stranieri che non. E dopo questo momento di riflessione veramente direi di andare con un brano e poi approfondiamo ancora di più. Benissimo, se possibile. Buon ascolto. Wrap around the pound and hold tight. Shut your eyes, girl, you shut me up for sight. Forget the other guys. You'll never Just wrap around the talent, hold tight, shut your eyes. Can you set me up for forget the other guys. You'll never fall, each time you call. Hold tight, hold tight, hold tight. Allora, Dave, Dee, Daisy, Biki, Mick e Tick. Magica tu, Simone... magici da bula, bidi. Io Simone vengo di là, Io te lo dico, Questi sarebbero solo il nome dei componenti. Mi vuoi ripetere perché ti sono entrato davanti, scusa. Scusa, Dave, Dee, Daisy, Biki, Mick e Tick. E sono i cantanti di questa canzone. No, questo è il nome del gruppo, che non è altro che i nomi dei componenti. Sai chi è il produttore? Hold Tight è il titolo del brano. I produttori sono Qui, qua no, Chip Shop, Magica Dula, Cighi da Bula, BDB. Grazie Simone, a nome mio personalmente. Ecco, questa è una canzone degli anni 60, però è andata alla notarietà nel 2007 per essere stata colonna sonora di un film di Quentin Tarantino, che non vi dirò. No, perché a certe cose è bene anche non trasmetterle. Scusa, a prova di morte. Ok. Benedetta. Sì. Proloco Foiano. Noi chiaramente responsabile siamo qui della comunicazione per esaltare queste iniziative. Siamo esaltati al tempo stesso. Al tempo stesso. E siccome siamo sempre alla ricerca di nuovi canali di comunicazione per raggiungere i nostri radioascoltatori, esci con le mani in alto. La domanda in sostanza era questa: la nuova iniziativa della Proloco Foiano, chiaramente non soltanto attraverso di noi, ha bisogno di essere conosciuta, di comunicare all'esterno. Che tipo di canali state usando, pensate di usare, per arrivare ai foianesi e al grande pubblico nazionale, internazionale, mondiale, terrapio? E via. Per il momento abbiamo solamente un profilo Facebook a cui possono richiedere l'amicizia, e è Proloco Foiano. E quindi no, prego. Pensavo ci fosse un'altra domanda. E quindi praticamente i foianesi o chi vuole può richiedere l'amicizia e quindi vedere anche nello svolgersi tutte le iniziative e quant'altro. Nel futuro è probabile che comunque si possa aprire un sito web e perché no magari creare un giornale proprio per il paese, sarebbe bello. Questo è molto interessante. Molto. Un momento di serietà, ma veramente un giornale per il paese è sempre stata una mia aspirazione. Sarebbe lo bello, dico seriamente. Un giornale per il paese, una volta insomma si facevano altri tipi di richieste, potrebbe essere proprio un'idea da valutare. Vediamo, vogliamo parlare fuori fin onda, finale 11? Fuori onda se potrà, no, se possiamo dare anche il nostro contributo. Siamo qui apposta noi, non con la tessera, certo, quella, ormai la prendiamo. Ormai. Però alle 11 bisogna smettere lo stesso, si prende. Luca, prego. Marcello mi fa morire. Luca, sappiamo che avete un'altra iniziativa in essere, sì. Raccontacelo. Vabbè, un po'. Ce ne saranno tante. Assolutamente. Per esaltare i foianesi e Foiano. Ma un'altra a cui teniamo è: adotta un albero per il tuo paese. bellissima, spiegacela un po' meglio, perché sì, Marcello, approfondiamo. Già Marcello ha due figlioli, ora non so se se la sente. Abbiamo pensato a questa iniziativa per risistemare, riabbellire quelli che sono i giardini del paese, le piazze, le vie di Foiano, e purtroppo l'amministrazione non ha abbastanza denaro per poterlo fare, però si offre la forza lavoro. Allora abbiamo pensato di abbinare questa cosa con il tesseramento per i minorenni e fare un'iniziativa dove i ragazzi danno un contributo per comprare una pianta verde o un fiore, e noi diamo la tessera. Quindi c'è un progetto da un punto di vista urbanistico di recupero dei giardini del paese, e l'iniziativa di cui mi stavi parlando andrebbe ad abbellire, a rinverdire il paese, facendo adottare, quindi assegnando proprio magari a un bambino, a un ragazzo, un albero che può in un certo senso sentirla sua. Sì. Perché è giusto che anche i bambini inizino subito a sentirsi foiano suo, perché ci vivono. Questa un'idea così marcia, ecco, non l'avresti mai veramente avuto. I bambini che si sentono foiano suo, questa secondo me è una frase da tenere a mente stasera. Guarda, vuoi che mandiamo un brano, ne pensi, ci pensiamo un po'? Vecchia Romagna, un qualche un brand che crea l'atmosfera. Vi invitiamo a riflettere su questa su quest'ultimo pensiero di Marzi. Wrong with baby. Nina Simone con My baby just cares for me. Allora, Google Translate, grazie di esistere. Aspetta, la rifaccio. E questa era Nina Simone con Just cares for me. Ho risolto. A questo punto io aprirei con le mani alzate un sondaggio con una serie di ascoltatori. Io preferisco quando la sbaglia direttamente Enzo. Preferisco la sua, il suo inglese maccheronico che Google Translate. Che maccarone mai provocato? Modemagno. Stroke. Proloco Foiano. Ritorniamo in studio. E Enzo, volevo dire una cosa, tutti coloro che si avvicineranno o vedranno qualcosa della Proloco non potranno che far che osservare il loro logo, il loro stemma che abbiamo testé pubblicato sulla nostra pagina Facebook, ecco, che è bellissimo secondo me. Bravo, che è bellissimo perché richiama veramente quello che è l'antico stemma di Foiano, il vecchio e il nuovo. Luca, te lo ricordi te com'è? Ce lo vuoi descrivere il vecchio logo, di, la vecchia bandiera, il vecchio stemma? Il vecchio stemma di Foiano rappresentava due cipressi, con all'interno dei due cipressi, nel mezzo dei due cipressi c'era una vacca canina e sotto ha un cielo stellato con una mezza luna d'argento. Che è un po' il diciamo richiama quello che è la Valdichiana, l'operosità delle nostre zone e la natura che ci circonda. Ecco. Sì. E il logo invece della Proloco unisce appunto parte di quel logo lì e parte il logo del logo il nuovo. Giglio fiorentino, quello che si fu donato da fiorentini dopo la guerra di Scanagallo. Quindi io volevo farvi complimenti perché secondo me è una giusta coniugazione. Chi ha realizzato questo logo? Luca? Un nostro socio fondatore, Marco Bregolato. Che ringraziamo. Ecco, visto che hai un po' introdotto chi è anche il nostro addetto grafico. Ah, ecco, okay, ci vuoi ricordare anche chi sono diciamo i soci fondatori, quelli o i consiglieri? Ah, tutti i soci fondatori siamo in 26, perciò sarebbe una lista lunghissima. Comunque è di buon auspicio perché essere in tanti su un'iniziativa che parte ci sono molte probabilità che vada bene, insomma, c'è forza lavoro da mettere in movimento. Noi vogliamo ancora di più forza lavoro, insomma, non solo le 26. Mentre i consiglieri in carica sono l'Alessia Zappalorti, Gian Piero Chiavini che ci ha salutato, Franci Catia, Franco Ceccarelli, Tonino Caccese, Mauro Pieri, Daniele Bordacchini. Poi il nostro segretario che è qui presente, la Valeria Salvadori, che ha parlato molto, che su tutti vigila. Esatto. La nostra tesoriera che si tiene a freno con le spese, Barbara Capossutti. E infine il vicepresidente, la Gaia Faenzi, che invece è la più estrosa, mi sembra. Ultima, ma non ultima, grazie. Che dire? Allora, siamo arrivati come sempre alla fine. Purtroppo. Vola. Ho già finito. Però vedi. Ci possiamo già prendere degli impegni per il futuro. Certo. Sì, perché io il prossimo torno. Non so se l'argomento della prossima settimana sarà attinente, però noi non chiudiamo la porta a nessuno, sicuramente. Però ci possiamo prendere anche l'impegno di ritrovarci tra un anno? Ma sicuramente prima. Di seguire la Proloco Foiano sulle vostre prossime iniziative per cercare di darne il massimo risalto possibile. Assolutamente, anzi speriamo di poter essere proprio testimoni delle vostre iniziative future, che siano tante e interessanti per far rinascere, diciamo ripartire, ma questo paese. Per pubblicizzarle noi faremo il possibile, anche se Marcello è evidente che ha dei problemi. Fare l'uomo sandwich è sempre stata la mia aspirazione. Va bene, ringraziamo tutti. Allora ringraziamo Gaia, grazie a voi per l'invito, Luca, ero pronta. Grazie mille. Ringraziamo anche Valeria, grazie, ciao. Benedetta, grazie. E Alessio. Ciao. E noi vi ringraziamo per il buffet. Ecco, la prossima volta offrivo. Voi non ci vedete, ma adesso andremo a pagare la tessera. Ringraziamo anche Simone e Paolo alle riprese. L'appuntamento è per giovedì prossimo a Piazza Alta, sempre su Radio F. Buonanotte. Buon ascolto dalle F frequenze. Avete ascoltato? Piazz'Alta! Un programma di e con Marzi e Zino. Alla parte tecnica Simone. One. Alle riprese Paolo. Paolo. Buonanotte. Il bischero. Enzo.